Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Torniamo in diretta negli studi di Via Zanardi, Radio Città Fujiko, il Breakfast Club nel Last Minute odierno che ci porta a teatro anticipando la rubrica In Scena di domani. E da questa sera fino al 17 dicembre un tema e un titolo quanto mai importante, una parola sola, amore, per quanto riguarda lo spettacolo di Pippo Del Bono. Beh, per dare così informazioni logistiche più precise, questa sera venerdì alle 20:30, sabato alle 19, domenica alle ore 16. Pippo Del Bono, dopo una lunga tournée in Italia e all'estero, per le date che ho appena annunciato, va in scena all'Arena del Sole di Bologna. Amore è il suo ultimo spettacolo. Del Bono è tra gli artisti più apprezzati, conosciuto anche all'estero. I lavori sono ospitati e prodotti nei teatri e nei festival di numerosi paesi, anche oltre confine. Lo spettacolo ha già debuttato nel 2021 al Teatro Storchi di Modena, sempre per ERT, e che è appena stato in scena anche a Cesena. Arriva a Bologna, dove era previsto in programma la scorsa stagione, è stato annullato, viene recuperato. Pippo Del Bono, regista, autore, attore di teatro, di cinema, di casa in ERT, e che lo sostiene fin dagli esordi. Del Bono ha segnato storia del teatro contemporaneo. Negli anni 80 ha fondato insieme a Pepe Robiedo la sua compagnia, che nel tempo si è allargata a una vera e propria comunità scenica dalla forza espressiva veramente molto forte. Amore, beh, direi che alle prese con un tema assolutamente da lasciare così, un po' senza parole. Descrivi l'amore, cos'è l'amore? Beh, è una grande produzione internazionale, in questo caso, che ha coinvolto personalità artistiche di diverse discipline, come il celebre chitarrista e compositore Pedro Iola, due volte premio Carlos Paredes nel 2021, il cantante Miguel Ramos, tra i più riconosciuti nella generazione della musica fado. Altri artisti saranno affiancati in questo lavoro, una ricerca appunto sull'emozione più potente, quel vero e proprio ingranaggio che nell'organismo umano seleziona, sposta, frantuma, ricompone tutto ciò che vediamo e sentiamo, desideriamo. Uno stato dell'anima attraversato in scena con una grande energia coinvolgente, come ho appena citato, anche da una musica che sa renderlo carnale oltre che spirituale. Punto di partenza il Portogallo, abbiamo parlato di fado con la sua cultura, le note sono quelle malinconiche del fado ma allo stesso tempo estremamente romantiche e sentimentali. Punto di partenza insieme nell'assenza, la distanza, la nostalgia, la parola poetica restituita dal regista, un regista, come ho detto, già ampiamente affermato, e questo viaggio che ci porta intorno alla parola amore sarà protagonista al teatro Arena del Sole dal 14 al 17 dicembre 2023. Vi è stata una sorta di atipica presentazione nei giorni scorsi, queste appunto le notizie che sono arrivate per darne anticipazione. Un po' di musica, si torna tra poco per continuare il nostro Last Minute e per saperne di più a proposito del lavoro di Pippo Del Bono, Amore, all'Arena del Sole dal 14 al 17 dicembre. Dal fado alla morna, la musica dell'isola del Capo Verde, la musica tradizionale portoghese, un forte sentimento, una sonorità che va a intersecarsi con altre per dare un aspetto sia carnale che anche spirituale per una colonna sonora che troveremo a commento dello spettacolo Amor, la curatela di Erta arriva a Bologna dopo la presenza a Cesena e a Modena per il lavoro di Pippo Del Bono. Ho portato allo stacco iniziale per dare anche una playlist ovviamente dedicata al fado, però la partenza è stato con Melvin Sparks, grande chitarrista di jazz groove. In conclusione vi farò ascoltare qualche brano dei Madre Deus. Beh, il fado ad Amalia Rodriguez, a musicisti che hanno dato a queste note un'ulteriore intensità. Vi ribadisco che è dal 14 al 17 dicembre, durata dello spettacolo un'ora, Teatro Arena del Sole, giovedì e venerdì, quindi questa sera e domani alle 20:30, nel weekend ore 19 per il sabato ore 16, Amore, Pippo Del Bono. In conclusione a questo nostro last minute, o Paraíso, il paradiso, l'interpretazione dei Madre Deus, a breve andremo in mostra, già in redazione con noi Viola Balugani, che troviamo per Bologna per le Arti, l'associazione che ogni anno porta questo regalo di Natale in Palazzo da Curzio. Noi seguiamo le esposizioni dalla nascita della rubrica in mostra, quindi anche quest'anno avremo modo di andare in approfondimento. A tra poco sui 103.1. Non cambiate frequenza per comunicazione con conduzione in diretta 333 180 9494. Madre Deus o Paraíso.